un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. C'è qualcosa di strano nell'aria che annebbia la mente. Lo capisci da certe stranezze che compie la gente. La follia collettiva dilaga, non dire di no. E la nave va sempre più a fondo, si salvi chi può. E ti appare del tutto evidente sfogliando i giornali. È una lunga sequenza di azioni ben poco normali. Caro Parenzo, eccoci. Chi è diventato uno dei leader da ieri sera dell'ormai sempre più folto gruppo di antinuclearisti italiani, per quello che sta succedendo in Giappone, per carità, drammatico. Adesso c'è pure un commissario europeo che parla addirittura di apocalisse. E vedremo naturalmente l'evoluzione della situazione. Speriamo, come tutti, che i giapponesi riescano a sconfiggere la situazione al reattore nucleare. E però Busi, Aldo Busi, il governo vadano a morire ammazzati su nucleare e giustizia. È questo il nostro disastro nucleare, questa. Allora io affido le centrali nucleari a questo governo che vuole fare questa legge sulla giustizia? Ma no, ma devono andare tutti, posso dirlo, a morire ammazzati. Di un altro si fiderebbe? In questo momento no. I soldi, noi siamo dei disgraziati. Questo Aldo Busi, i giapponesi sono tutti in fila. Senti un po', i giapponesi sono in fila, ordinati, reagiscono anche con una certa compostezza, il che è vero. Gli italiani si ammazzerebbero tra di loro e io sarei contento. Là ho letto appunto le ultime derrate, questa incetta, l'ultimo pesce congelato, non c'è più niente, le barche non rientrano, tutte distrutte, eccetera, eccetera. In coda. Nessuno oserebbe tagliare la coda. Passare avanti. Lei si immagina degli italiani che non passino, si ritroverebbero tutti e finalmente, e sarei ben felice, si schiaccerebbero gli uni con gli altri. Io sarei felicissimo di questa giusta carneficina dettata dall'ignoranza della convivenza civile. Loro stanno dando una grandissima lezione, sì, di dignità. C'è qualcosa di strano nell'aria che annebbia la mente. E va bene, questo era Aldo Busi. L'antipasto, giusto per iniziare sobri, no? Come sempre, molto bene, molto bene. E invece Di Pietro si trasforma in una sorta di Nostradamus e dice che lui non esclude una scossa in Italia come quella giapponese. Se è vero come è vero che in Giappone c'è stata una forte, come si è detto, imprevedibile scossa di terremoto, è vero che anche in Italia può starci, a Messina non è che ce n'è stata una da meno qualche anno fa. Non ci resta che un grido soltanto, si salva. Renzi, il nucleare va fatto, non mi stupisco di questa posizione di Renzi. Sentitelo domenica da voi, l'abbiamo ignorato ieri, via. No. Se invece vogliamo discutere del nucleare, beh, allora io credo che si possa e si debba farlo in modo però molto serio. Dice, non è il momento adatto, non è proprio questo momento adatto per riflettere nucleare, anche su un paese ipertecnologico che non è riuscito a garantire la sicurezza e noi saremmo in grado di farlo. Perdonatemi, in questo momento il dramma del Giappone non è che ci sono 10.000 morti per le fughe del nucleare, ci sono 10.000 morti perché c'è stato un terremoto tra i più gravi mai registrati, certo, e c'è stato lo tsunami. Scioglievamo nell'acqua l'idrolitina. Bene, bene, 800 24 00 24, questa è la Zanzara, dove andiamo? Direi ad Eugenio Scalfari, su Giuliano Ferrara, non mi confronto con lui, parlo direttamente con il padrone. Sentite, Scalfari, eccezionale. Siccome Ferrara le ha lanciato la sfida di un confronto televisivo, lei perché non lo accetta? Ma io non lo accetto per un semplice problema, che semmai accetterei volentieri un confronto televisivo con Berlusconi, perché lo devo accettare con Ferrara. Con Tremonti l'ho fatto qualche sera fa, non è che mi dispiacciono i confronti, mi piace combattere con i pari, con i miei pari. non ritengo Ferrara un mio padre. Ferrara non è un mio pari. Noblesse oblige, noblesse oblige. Lui si confronta solamente con Dio oppure con quelli poco al di sotto. Comunque lui considera al di sotto con un mio pari. Ma cosa intendeva? Perché cos'è un sottoposto, un suo dipendente? Ma intendeva siccome mi confronto perché editore, mi confronto al massimo con Berlusconi. Con Berlusconi, se mi devo confrontare con qualcuno, io mi confronto con Berlusconi, con Tremonti. Con i numeri uno, insomma. Con i numeri uno, non con i numeri due. Ma sì. Questo è il. Questo è. Bene, bene. Intanto ci sono notizie su Berlusconi, la vicenda Ruby, eh? Beh, notizie. I magistrati hanno ricostruito come si svolgono le serate a casa di Berlusconi in tre fasi. In tre fasi. Pensate che inchiestona. Prima le cene. La cena o le cene. Poi il bunga bunga. Infine la scelta da parte di Berlusconi di una o più ragazze con cui intrattenersi per la notte in rapporti intimi. Questo è confermato da prove, da cose. Vabbè, no? Sì, beh, secondo loro, naturalmente. I PM in particolare descrivono i bunga bunga come mascheramenti, spogliarelli e balletti erotici con le ragazze che si toccavano reciprocamente, ovvero toccando e facendosi toccare nelle parti intime da Berlusconi. Questo è tutto virgolettato, nella richiesta di chiusura delle indagini su Emilio Fede, Nicol Minetti e Lele Mora. Va bene. Eh beh. 800 24 00 24, è con noi un nostro caro amico. Parenzo, so che non ti sta particolarmente simpatico, invece a me sta molto simpatico. Domenico Scilipoti. Grazie, buonasera, come state? Come sta Scilipoti? Nel suo ufficio di Roma, qui cadono le linee, pure Parenzo è caduto la linea, lei sarà contento, Scilipoti? Come non ho capito? È caduta la linea di Parenzo, lei sarà contento, Scilipoti? No, perché per carità, no. Fa sempre piacere sentirlo, anche se effettivamente quando parla dice delle castronate, però vabbè, pazienza, sa, ognuno di noi non c'è nessuno perfetto, anche lei ogni tanto, anch'io qualche volta. Quante volte sbaglia lei, diciamo, su 100? Ma non lo so, presuppongo su 100, 49 volte. Eh beh, insomma, che lei la metà delle volte che parla dice castronate. Vabbè, Scilipoti, ma allora lei... No, io mi confronto solo con i miei pari, col numero uno. È tornato Parenzo. Ho sentito la parola Scilipoti che è tutta la linea in treno. È un servo, dico, nel senso buono della cosa. Calma, non si capisce. No, nel senso buono della cosa, cioè dire nel senso che servo di un modo di pensare che effettivamente... Però la parola servo non è bella, Servo glielo dice a tutti i suoi parenti. Primo, mi permetto di tirare servo e utilizziamo un'altra parola. Ecco, meglio utilizzare, visto che lei è passato dall'Italia dei valori a Berlusconi, quindi è meglio utilizzare un'altra parola, amico mio. Vabbè, Scilipoti, senta un attimo, ma questa storia della... Ma cerca sempre di parlare per dare forza a quello che dice, perché normalmente quello che dice è così sciocco nel tempo e nel contenuto, allora che deve obbligatoriamente dire e continuare a parlare con forza. Allora, un attimo solo, Parenzo, sì. Ma Parenzo, è sempre senza testa, dice che ci viene mal di. Allora, io capisco che tra di voi... Io capisco che tra di voi... Come tiri l'acqua? Io l'acqua del treno dell'Eurostar. Cioè, sei in bagno e stai tirando la... Sì, parla io tiro l'acqua. Ma ho capito, ma questa qua è una cosa di una volgarità enorme. Ma sei andato per servo, io tiro l'acqua. No, io l'unica cosa che non riesco a capire, c'è stato, chiedo scusa per quello che dico, ma c'è stato soltanto un parto anale nella vita, nel mondo, e guarda caso è venuto fuori Parenzo. Cioè, un parto anale addirittura. Beh, ma questa, Scilipoti, questa è grossa, Parenzo. Se lui è in bagno e tira l'acqua, gli viene normalmente di fare questa riflessione. Allora, Parenzo prodotto frutto di un parto anale. Benissimo, l'unico nel mondo. È l'unica volta che è successo nel mondo, è stata effettivamente resterà la storia. Come dice Emilio, lei è una scoreggia nello spazio. Ora per favore, lo faccio stare zitto, mi faccio qualche domanda. Chi l'ha detto scoreggia nello spazio? Chi l'ha detto? Emilio lo dice. Vabbè, Emilio, ma Emilio Miglio mica lo disse di Scilipoti, lo stai dicendo? Figurati, sei grande, Miglio immaginava che potesse esserci un prodotto così alto della classe politica, figuriamoci. C'è l'unica cosa che sa fare è solo di parlare, dire delle volgarità, no, non voglio utilizzare al seggio volgarità. Senta Scilipoti, ma è vero che lei ha la scorta? Ma io veda, quelli che hanno speculato su questo argomento, l'unica cosa chi che ha speculato? I suoi ex colleghi? I miei ex colleghi che sono dell'Italia dei Valori, si no? Sono sempre comportati, sono stati nel passato, si sono sempre comportati, resteranno autisti. Nel come modo autisti? In che senso autisti? Nel modo di comportarsi, nel modo di concepire, nel modo di parlare, nell'usare il linguaggio. Come? Che vuol dire autisti? Scusi. Glielo chieda a chi oggi ha fatto quella dichiarazione o ha fatto quel comunicato stampa nel dire che tutto ciò che succede è la riduzione di quelle che sono i soldi che dovrebbero essere utilizzati dalle forze dell'ordine, non ci sono perché sono stati spesi in scorte, e guarda caso queste scorte sono quelle di Scilipoti e di Renzi. Questa è gente mediocre che andrebbe presa a calci nel sedere, accompagnata a calci nel sedere da Roma a Palermo, oppure da Roma dico a Pordenone, perché gentaglia che non capisce quello che dice, che non si rende conto e non sa di che cosa sta parlando. Gentaglia. Cioè lei dice Donati? Sono stati loro la causa che permettono che determinati personaggi si permettono di scrivere: ti aspetta il plotone di esecuzione, farai la fine dei samurai, ti taglieremo la testa, oppure quello che entro in un bar e c'è qualcuno che effettivamente non è che conosce la realtà, ma perché ha letto dai giornali che Scilipoti è collegato a qualcosa di non di losco, allora dice, se affermano come il cameriere di un bar ultimamente che sono entrati, dice: dranghetisti e mafiosi, questi sono i politici, dranghetisti e mafiosi, o quell'altro che dice che la fine che dovrei fare è quella di essere impiccato, oppure mi aspettano sotto casa per spararmi. Queste sono dei messaggi per SMS che mi mandano giornalmente. Che le mandano, per esempio? Gente che, poveretta, è ammalata e utilizza un linguaggio che è fuori dal normale, e io spero che sia soltanto che utilizzano soltanto il linguaggio. Il senatore Pedica, lei come lo definisce? Che nessuno poi invece dal linguaggio e dall'uso delle parole passi ai fatti. Chi ha determinato momento di grande tensione sono quei servi, ecco qui lo utilizzo, servi mediocri, che come giornalisti non hanno niente, cioè non hanno nessun tipo di requisito di essere giornalisti, ma sono soltanto dei personaggi che debbono buttare fango. Per esempio, mi faccia qualche nome, Scilipoti, tutto quello che è stato detto. Scilipoti, mi faccia qualche nome. Concludo, è stato fango buttato, anche è vero che io ho querelato. Ho querelato sia il Fatto Quotidiano, sia Repubblica. Ma perché cosa? Il Fatto Quotidiano, sia Repubblica, per tutte quelle bassezze e delle cose non vere che hanno detto, perché hanno buttato solo... Dicendole che lei era comprato, eccetera. Dicendole che lei era comprato e cose di questo tipo. No, non è questo, non hanno detto, perché uno può dire che sono comprato, ma hanno detto che io appartenevo ed ero punto di riferimento delle 'ndranghe, delle cosche mafiose. Senta, ma chi è invece che non ero laureato? Questo è una gente un attimo, non si capisce se vi accavallate. Quello che dice, che parla tanto per parlare, perché ha la bocca e non si rende conto che quello che scrivono che non corrisponde alla realtà minima. Scilipoti, scusi un attimo, io quando lei dice quelli del suo partito, come li definisce? Prima li ha definiti in maniera molto pesante, quelli che hanno detto che la maggioranza ha dato la scorta a persone che hanno tradito il loro partito per sostenerla. Quelli sono dei mediocri, sono dei servi sciocchi che per far contento a qualcuno si inventano e dicono la qualsiasi cosa, perché hanno bisogno. Ecco, ma chi sono questi qua? La bacchetta di zucchero. Pedica, chi è? Pedica di turno ha bisogno della bacchetta di zucchero o la bustina di zucchero da parte del suo capo popolo, del suo capo partito, perché hai fatto bene che ha attaccato Scilipoti. Allora, traffico, torniamo subito. Scilipoti, traffico. Eccoci alle 18.50, 800 24 00 24, escono fuori dettagli importanti, interessanti sulla vicenda di Rubi, per esempio che Rubi ha compiuto atti sessuali con Berlusconi dietro pagamento di corrispettivo in denaro e altre utilità per 13 incontri ad Arcore tra il 14 febbraio e il 2 maggio del 2010, quello scrivono i PM. Nell'avviso di conclusione dell'indagine a carico di Nicol Minetti, Lele Mora e Emilio Fede, la stessa Minetti intermediava i compensi previo all'ok del Premier, mentre Fede individuava e valutava esteticamente le ragazze. Scilipoti, sì. Ma quante sono le persone di scorta con lei? Due? C'è una, perché una fa l'autista e l'altro mi accompagna. Sono Due. Anche l'autista, sì, sì. Cioè. Beh, l'autista della scorta, Parenzo. Qual è l'autista? Ma di cosa ti stupisci? Poi tu sei... Tu dici sempre, scusa un attimo, Scilipoti. Non perda tempo con Parenzo, per favore. No, voglio far presente a Parenzo. Devo far presente a Parenzo. Che... Quando si parla, quando utilizzano frasi o parole buttate là senza significato, non fanno altro che creare un clima che può armare la mano degli squilibrati. Cioè, Parenzo arma le mani degli squilibrati. No, Parenzo è squilibrato lui, perché non ha necessità. Ma io ho grande rispetto per il signor senatore Pedica, sì, si permette di fare poi una riflessione complessiva nel dire che tutto quello che è successo, perché non ci sono soldi per le forze dell'ordine, è tutto da addebitare alla scorta di Scilipoti. Vabbè, allora, dica qualcosa in diretta a Pedica. È un idiota completo, perché non sa quello che dice e non si rende conto nemmeno delle parole che utilizza. E siccome vuole parlare alla pancia della gente, non ha capito che questi mediocri nella politica dovranno scomparire prima o poi, sì, perché non è che parlando questo linguaggio che si potrà ottenere il consenso per cambiare le regole del gioco e conseguenzialmente creare una classe dirigente, una classe politica diversa. Questi sono dei personaggi che andrebbero presi a calci nel sedere, no, dica anche quando culo, la scarpa si consuma. L'unica cosa che si può fare è solo questa, perché gente di queste levature, di questo tipo di questi personaggi non hanno nessun significato, ma non hanno significato non soltanto all'interno della politica, ma hanno significato anche all'interno di quello che viene definito da noi come nobile l'essere vivente, ecco, dico, addirittura così. Cioè Pedica gente che cerca di speculare su tutto senza capire quello che ha perso dice. Il lume gente di non capire, non capisce Pedica, addirittura subumano ora, Pedica come ora, un subumano devo parlare di fermatelo, Scilipoti. Ma che senso ha parlare? Di che cosa dobbiamo parlare? C'è un signore come questo signore che si permette di fare delle affermazioni e di non rendersi conto, oppure fa finta di non rendersi conto, perché lui conosceva e conosceva chi era il parlamentare, come ragionava e come ragiona, e tutto quello che io in questi tre mesi E allora cosa gli è preso a Pedica? Potrei essere contestato dal punto di vista politico, ma essere contestato da qualcuno perché la pensa diversamente da me, mi può contestare. Però non sulla scorta, dice. Non dico sulla scorta, ma dire di queste sciocchezze, queste cose che non stanno né in cielo né in terra, cioè dire che quasi il problema della giustizia e delle forze dell'ordine in Italia, la mancanza di denaro, oppure quello che è stato tolto alle forze dell'ordine è dovuto perché hanno messo la scorta a Scilipoti e a Razzi, è un emerito imbecille quando parla in questi termini. E poi un fatto che tutti sanno, perché è stato ricordato da tutti i giornali e lo sa anche lui, va bene, che io me l'hanno detto di tutti i colori, ma oltre a dirmi a tutti i colori mi hanno contestato giustamente, ma quelli che mi contestano democraticamente che ben bene, invece... però ci sono gli squilibrati che poi dalla contestazione invece reagiscono o agiscono. Senta, lui oggi al Corriere della Sera ha detto: cosa volete che costi una scorta? Beh, insomma, adesso qualcosa costa, per carità, secondo me è dovuta, perché poi non decide lei. La mia riflessione era, che cosa volete, cioè era la riflessione alla domanda che mi poneva il giornalista. No, non usi il termine dicendo, riflessione, Scilipoti, non lo usi. Si riferiva al fatto della riduzione, cioè dire delle forze dell'ordine che in questo momento si trovano in difficoltà. Ho capito, però lei ha detto... Lui mi diceva, tutti i mali sono da attribuire alla scorta di Scilipoti. Razza, che cosa volete che costi una scorta? Cioè una scorta può essere mai o 2, 5 o 10, cioè non è quello che cambia, che cambia o attribuire alla riduzione dei finanziamenti alle forze. Senta, Scilipoti, siccome ci sono molti autisti, non bisogna estrapolarla, bisogna contestualizzarla, però ci sono molti autisti che ci chiamano arrabbiatissimi perché lei ha detto quel Pedica o quelli che mi criticano, i miei ex colleghi. Autisti nel senso, allora chiedo scusa agli autisti. Poi spiegheremo perché gli autisti sono arrabbiatissimi. Io ho il giornale radio, appunto, ho il giornale radio, la richiamo tra un quarto d'ora. 800 24 00 24. E a questa volta eccoci, 19:18 800 24 00 24. Andiamo a sentire chi abbiamo. Parenzo in treno tra Firenze, anzi tra Bologna e Firenze, con galleria a gogo. Parenzo non ci sente, infatti i titoli del TG3. Livello delle radiazioni a Fukushima nocivo per la salute, esplosione in un reattore, incendio in un altro, possibili danni al nocciolo per l'agenzia atomica. In Giappone si parla di apocalisse, devastazione e morte in un paese dove il sisma ha inghiottito case e persone, ma anche sicurezze e speranze. Affonda la borsa di Tokyo, giù di oltre 10 punti, il rosso Europa e Wall Street, e preoccupa il blocco della terza economia del mondo. Tensione nel PDL sul rimpasto, scaiola di nuovo da Berlusconi, responsabili in subbuglio, Giovanardi, basta con i tagli o me ne vado. Induzione alla prostituzione dal settembre 2009, chiuse le indagini della Procura di Milano su Minetti, Fede Mora, Rubi coinvolta a 16 anni. Napolitano alle regioni, l'Unità d'Italia più viva con il federalismo, ma la Lega e Lombardia rovina la festa, esce dall'aula all'inno di Mameli. La maggioranza degli italiani contraria alle centrali nucleari, scarsa informazione per il 60% del futuro nelle energie alternative. C'è qualcosa di strano nell'aria che annebbia la mente. Lo capisci da certe stranezze che compie la gente. Allora, Bendola, fino adesso un racconto magico del nucleare. La nave va sempre più a fondo, si salvi chi può. Il nucleare ha sempre vissuto dentro una sorta di racconto magico. Il nucleare risolverà i problemi dell'approvvigionamento energetico dell'umanità. E tutti quanti stiamo cercando di capire come emanciparci dalla dittatura del petrolio. Non ci resta che un grido soltanto, si salvi chi può. E meno male che dice imparare dal Giappone senza macabre speculazioni. Noi dobbiamo imparare qualcosa dalla tragedia giapponese. E non si tratta di fare, come dice il ministro Stefania Prestigiacomo, macabre speculazioni. Anche il calcio non è più lo stesso, me l'hanno truccato. E chi imbroglia conosce in anticipo il risultato. E poi uno dei mantra dell'estrema sinistra da tempo: il nucleare crea una militarizzazione del territorio. Il nucleare propone sempre un livello di militarizzazione del territorio ed è governato dalla logica del segreto di Stato. La logica del segreto di Stato, la militarizzazione del territorio. E mia nonna va sempre. Ancora un Busi, non sul nucleare ma sul Libero e il Giornale. Psicosi nucleare in Europa, la tragedia diventa farsa. Questa è la linea che il Libero e anche il Giornale portano avanti, del resto. Bisognerebbe appunto mandarceli questi qua. Là. Che stiano sotto vento per un paio d'ore. No, che stiano sotto questa centrale scoppiata e che non risalgano più in superficie. Ma poi è vergognoso che ci siano queste beghe da pollaio, queste questioni tribali di localismi di fronte a un'emergenza veramente universale. Stanno lì a parlare di stronzate loro, di come si guardano la mattina le caccole l'uno nella narice dell'altro, da prendere e da impalare questi qua. Noi. Così Busi sul Libero e il Giornale. Vi voglio far ascoltare adesso il ministro Maracalfagna il 4 dicembre del 2010 a proposito, ma naturalmente non vuole essere una critica, per carità, non è, nessuno è tenuto a raccontare le proprie amicizie, i propri rapporti, eccetera, eccetera, insomma la sua vita privata. Sull'amicizia con Bocchino, se non lo sapete, oggi è stata annunciata un'intervista alla moglie di Italo Bocchino su Vanity Fair, in cui dice che il marito e la Carfagna hanno avuto una relazione per due anni e mezzo, una relazione che sarebbe stata, secondo la moglie di Bocchino, troncata. La Carfagna dice: amicizia con Bocchino, ci hanno ricamato su. L'amicizia con Italo Bocchino è un'amicizia che risale a diversi anni fa, sì. È un rapporto di colleganza molto stretto, è stato un rapporto di colleganza molto stretto fino a quando poi Italo Bocchino non ha deciso di dar vita a un nuovo partito con Gianfranco Fini. E se magari fossimo stati, ecco, due uomini o due donne, non ci sarebbe stato nulla di male, essendo insomma un uomo e una donna, essendo magari una donna di gradevole aspetto, ci sia ricamato su qualunque cosa. C'è qualcosa di strano nell'aria che annebbia la mente. Bene, bene. Antonio da Latina, 800 24 00 24, questa è la Zanzara fino alle 21 con voi. Prego. Buonasera, dottor Cruciani, la saluto con affetto perché mi tiene compagnia tutte le sere che torno a casa. Dica. Io volevo dire questa cosa qui, una piccola provocazione. Si parla tanto, diciamo, contro Berlusconi, la sinistra che lo può far cadere ma non ci riesce, eccetera, eccetera. Io sono convinto che secondo me dovrebbe essere Berlusconi, per onestà intellettuale, a far cadere il governo, e mi spiego subito in due parole. Perché sta insieme alla Lega. La Lega, abbiamo anche oggi abbiamo sentito poco fa i titoli su Rai 3, no? Quando c'è l'inno nazionale escono dall'aula, quando hanno fatto quando si è detto di festeggiare l'Unità d'Italia, loro non sono d'accordo. E quindi secondo me, visto che loro in Italia non gradiscono tanto starci, perché Berlusconi, che è poi il capo del governo italiano, dovrebbe stare con delle persone così? Cioè, rispettabilissimo quello che dice la Lega, ma stiano fuori dal governo, non possono governare l'Italia della quale non vogliono far parte. Mi sembra un po' un assurdo, e quindi secondo me Berlusconi dovrebbe far cadere lui il governo e dire ok, benissimo, non mi piace stare in Italia, ricominciamo da capo, andiamo a elezioni. Antonio, mi sembra francamente non solo fantapolitico, qualcosa di impossibile. Il legame tra Berlusconi e la Lega è evidentemente molto forte, figuriamoci se Berlusconi fa cadere il governo perché la Lega ha degli atteggiamenti anti-italiani, figuriamoci. Daniela dalla provincia di Ravenna, buonasera. Io Dica. Volevo intervenire in merito alla posizione del nostro governo nei confronti del nucleare e soprattutto delle dichiarazioni della Preste Giacomo. E volevo niente fare una riflessione con voi, che insomma, mentre i vari paesi che già utilizzano il nucleare stanno oggi rivelano, diciamo, i propri piani, noi invece perseveriamo su una tecnologia obsoleta. No, veramente non è proprio così, non è che stanno rivedendo i propri piani, hanno semplicemente detto, anzi, se vuole le leggo una dichiarazione del ministro degli esteri francese Juppé, che non è proprio in questa direzione. Stanno naturalmente ricontrollando le centrali vecchie, stanno rimettendo a punto i criteri di sicurezza e quant'altro. Non c'è nessuno che ha detto rinunciamo al nucleare o rinunciamo all'energia nucleare. Anzi, il ministro ha detto che entro il 2020-2020 non utilizzerà questa tecnologia. Sì, sarà, ma questo è un altro discorso. Non c'è oggi qualcuno in cui noi saremo pronti con la prima centrale nucleare. Daniela, uno può essere uno è a favore, può essere a favore o contro il nucleare, ed è legittimo, però non bisogna dire stupidaggini. Oggi il ministro degli esteri francese, il ministro dell'ambiente francese, ha detto ricontrolleremo le centrali una ad una. Dopodiché il ministro degli esteri ha detto sicuramente sarà una tecnologia che utilizzeremo nei prossimi decenni, per cui non c'è nessuno che oggi, dopo quello che è successo in Giappone, i cui contorni sono ancora tutti da definire, eccetera, eccetera, dice rinunciamo per sempre all'energia nucleare. Non è così. Si interrogano, qui c'è una posizione demagogica. Ma non è vero, anche noi ci interroghiamo sulla sicurezza. No, mi sembra proprio di no. Come non ci interroghiamo? Ma se non ne abbiamo le centrali, ma non le abbiamo le centrali. Perché non si dice, mi scusi, perché non si mi fa parlare? Sì. Perché non si dice cosa si dovrebbe dire del nucleare e che è basato su una fonte di uranio che non è una fonte rinnovabile, come lei ma sa. Ma questo è un altro discorso. Mette in dubbio anche questo, che è una fonte che si sta esaurendo. Daniela, ma questo è un altro discorso. Su una tecnologia obsoleta. Va bene, d'accordo. Capisco perché neanche c'è spazio per una riflessione. Ma come non c'è spazio su una riflessione? È da decenni che si parla di queste cose qui. Che cosa dice non c'è spazio per una riflessione? È da decenni. Il ministro ha detto che si va avanti. Ma cosa c'entra? Il ministro dice si va avanti col riflessione quando tutto il mondo. Va bene, bisogna fermarsi a riflettere. D'accordo, bisogna fermarsi a riflettere quando. Ma bisogna sempre riflettere su quello che offrono le nuove tecnologie, su quello che offrono le centrali nuove, sui sistemi di sicurezza. Non ha detto così. Per cui noi andiamo avanti a prescindere dalle cose nuove che arrivano dal punto di vista della sicurezza. Daniela, ma non è così, no? Capire un attimino prima di perseverare su tecnologie di terza generazione acquistate dalla Francia, a meno che non si dichiari quali interessi economici si siano dietro con la Francia. Poi mi spieghi come mai il governatore del Veneto, ad esempio, ha già posto un veto che nel Veneto non ci sarà mai, finché governerà lui, una centrale. Vabbè, quello è un altro discorso. No, non è un altro, me lo spieghi lei. No, è un discorso del governo. Mi scusi, Scusi, a parte che non è un esponente del governo, a parte non è un esponente. Daniela, si calmi un attimo, si calmi un attimo. Chi rappresenta la Lega, il PDL, il governo? Daniela, chi rappresenta? Si calmi un attimo innanzitutto. Prima cosa, i governatori di alcune regioni, di tutte le regioni, hanno detto di no. Secondo me è atteggiamento molto negativo. Ma c'è un problema, è evidente che c'è un problema. Il solito problema italiano per cui nessuno vuole le centrali nucleari sul proprio territorio. Secondo lei perché? perché sono impopolari, perché sono impopolari, perché sono impopolari, è per questo che non vogliono centrali nucleari sul proprio territorio. Sono pericolose, lei mi fa dire oggi qual è lo smaltimento delle scorie. Va bene, Daniele. Andiamo a sentire la borsa, arrivederci. Sì, sì, a risentirci, sì, certo che vado avanti, a risentirci, borsa. Eccoci, Parenzo? Eccomi. Volevo leggere all'ascoltatrice di prima, Daniela. Dov'è finito quel personaggio lì che chiamano onorevole, dov'è? Eccolo qui, Scilipoti. No, non c'è, è caduta la linea pure con Scilipoti. Ma come mi ha definito? Perché mi arrivano messaggi, parto anale, cos'è che sì, ha detto? Frutto di un parto anale. Sì. Frutto, ecco. Lui è... niente, non si può neanche come definirlo, è indefinibile. Non si può neanche... niente, non si può definire, mi spiace. Ma non definire Scilipoti, non è un problema. L'importante è che lui definisca Parenzo, così almeno... così almeno si accontenta. C'è un ascoltatore che ho appena finito di ascoltare come risposta alla signora dell'ultimo intervento. Come smaltiremo le scorie? Borsa. Alla signora di prima, Daniela, voglio leggere una cosa che scrive oggi Mario Secchi sul Tempo. Ed è questa: dobbiamo tenere presente nei nostri calcoli piccoli piccoli che nel mondo sono in attività 442 reattori che i tedeschi, gli spagnoli, gli svedesi, gli ucraini, i rumeni, gli olandesi, i finlandesi, i bulgari producono energia atomica. L'Europa brulica di reattori, per non parlare della Cina, della Russia e degli Stati Uniti, dove l'amministrazione Obama fa del nucleare un fattore di energia pulita e sicura. Nessuno spegnerà i reattori, e questo mi pare evidente, perciò sarebbe stato più serio ragionare così. È impossibile dominare la natura, la sua grandezza ci riduce a un puntino nel cosmo, quel che siamo, ma dobbiamo chiederci se riusciamo a dominare la potenza dell'atomo e sfruttarne la fiamma eterna in sicurezza. Tutto vano. Prevedo il tramonto di ogni progetto italico. Vinceranno quelli del NIMBY, not in my backyard, non nel mio cortile. Prevarranno quelli che vogliono il comodo progresso per sé, ma scaricandone i costi sugli altri. Siamo vicini ai giapponesi, ma lontani dalla loro dignità. E su questo... bello. Non c'è dubbio, è così. Il progresso, bello. Vogliamo il progresso, ma in realtà poi lo vogliamo scaricare i costi del progresso sugli altri. Perché alla fine vinceranno quelli. Vedrai che adesso il referendum si trasformerà in una sorta di crociata, come al solito, sì e no al referendum. No, ma poi sono delle fiammate che poi si spengono. Vedremo nei prossimi giorni anche come andrà a finire questa vicenda del Giappone. Per carità, non è importante per il nostro referendum, è importante per quelli che vengono contaminati. Scilipoti! Sì. Perché dici di no, Parenzo? Ma perché dà un contributo assolutamente inutile. Come si suol dire in gergo dialettale sicolo, bedamas, cioè dire sentire Parenzo e sentire una disgrazia. Beh, addirittura. Mamma mia, per i radioascoltatori che sentono sto Parenzo, ma non potrebbe fare solo la spalla, punto e basta. Sì, ha la spalla intelligente, perché è una spalla povero uomo. Mediocre. Che uomo povero, mamma che mia. Beh, non mi insultate. È diventato però. Famoso suo, ma mi faccio qualcuno altro, ma intelligente, per favore, dottor Cruciani. No, non lasci perdere questo Parenzo. Scusi un attimo, ci ripoti, però. È odioso, è un uomo odioso, è la sua trasmissione che è inutile. Un attimo, però, se parlate insieme vi accavallate. Allora, è inutile, voglio solo dire questo, è un uomo inutile. Quello che dice, parla addosso. E però lei gli ha detto che scusi Scilipoti, lei ha detto che è il frutto di un parto anale, una cosa molto sì, effettivamente sì, è l'unico parto anale che nel mondo. Tutti i libri di storia e di geografia, di anatomia, di ginecologia, di ostetrice, e quel tuo uomo sarebbe un deputato, parto anale. Però lo devi questo lasciare nulla, parlare. Questo nulla, questo nulla, queste corde vocali che parlano. Però per lui dico, riferito solo ed esclusivamente a lui e non alla famiglia, attenzione. Ecco. Comunque guarda Parenzo che Scilipoti è ginecologo, credo, dunque ostetrico, pure ostetrico, ma non sono mai riuscito ad avere un'altra nei libri, non sono riuscito, ho fatto una ricerca attenta, l'unico caso che è capitato nel mondo è questo di Parenzo, l'unico caso che c'è stato di parto anale è Parenzo. Per me, io rispondo come Churchill, per me Scilipoti di essere lui l'unico parto anale del mondo. Beh, che dicevi Parenzo? È un Paronzo, individuo modesto, Paronzo, non privo di ragioni per esserlo. Paronzo. Senta, ma Scilipoti, questo rimpasto si fa o non si fa? Ma per me non è importante il rimpasto completamente. Noi cerchiamo di lavorare e di andare avanti. No, quello l'ho capito, però adesso in agenda c'è il rimpasto. Voi lo volete fortissimamente questo rimpasto o no? Ma noi non vogliamo il rimpasto, noi vorremmo discutere prima di ogni cosa, prima del rimpasto, una linea politica da condividere, la nostra linea politica da inserire, da integrare alla linea politica del governo e conseguenzialmente poi stabilire un percorso assieme. e che potrebbe vedere anche un rimpasto o l'allargamento o il completamento della maggioranza. Ma lei si aspetta qualcosa? Lei si aspetta? No, io no. Lei io no. ho già detto che non sono disponibile. Lei, dunque, Scilipoti non sarà sottosegretario su questo. Meno male. In questa fase non sono disponibile. Meno male. Ma qualcuno annuncia per domani? È possibile? Ha avuto contatti da questo punto di vista, Scilipoti? No. Non ho avuto nessuna comunicazione né ho avuto notizie che di domani noi dovremmo mandare una lettera al capogruppo dicendo che è opportuno domani convocarci noi per definire la nostra linea programmatica e conseguenzialmente presentarla al governo e al Presidente del Consiglio per condividerla. Ma lei resta sempre nei responsabili, sì? Oggi ci sono. Beh, come oggi ci sono? oggi sono all'interno dei responsabili. Però siccome negli sono segretari di un movimento di responsabilità nazionale che non è iniziativa responsabile, che è cosa ben diversa. Com'è, è difficile da comprendere per Parenzio, perché ha qualche difficoltà, avendo poco testa o quasi niente testa diventa difficile capire. Lei invece mi recepisce perfettamente, anche chi ci sta ascoltando. Iniziativa responsabile è un gruppo di 5 gruppetti che fanno parte del PID, Forza Sud, Movimento Responsabilità Nazionale ed altri. Invece il Movimento Responsabile Nazionale, dove sono il segretario nazionale, siamo soltanto due parlamentari, due, e sono i due parlamentari che hanno costituito questo gruppetto il 9 di dicembre. Cioè lei è Razzi? Non è informato, nemmeno io sono informato. È Bruno Cesario. Sì, scusi, ha ragione. È Bruno Cesario. Vabbè, ma dico, questa non è una colpa. Dico, non è no, tutti anche perché sai, è complicato. Che succede all'interno del Parlamento? È complicato. No, è effettivamente complicato. E poi non è che tutti, cioè, non si può seguire. Cioè, dire, perché c'è stata leggermente nell'opinione pubblica c'è anche un poco di confusione parlando di iniziativa responsabile. Ah, su questo non c'è dubbio. Cioè, spieghiamo, allora, Scilipoti. Il responsabile è un gruppetto di quasi 30 parlamentari. Esatto, mentre il movimento di responsabilità nazionale è una parte di iniziativa responsabile. Perfetto, siamo soltanto due parlamentari. Siete due parlamentari. Ma Razzi di che fa parte? È costituito il 9, cioè dato vita questo movimento, se nasce il 9 di dicembre. Sì, Razzi invece non fa parte del Movimento di responsabilità nazionale, ma fa parte di Noi Sud. Di Noi Sud, ecco. Che ci ho azzeccato. Iniziativa responsabile. Ci ho azzeccato. Ma esce Razzi dalla. No, se è dentro, è stato critico per alcuni atteggiamenti assoluti, sì. Però e all'interno di... È stato critico, certo. È una commedia, dai. È una commedia, la commedia sei tu, Parenzo, che sei la commedia della vita, soltanto che non hai niente a che vedere con Pirandello e con altri, sei la brutta copia di quello che è placato e con grande difficoltà, devo dire, delle brutture della nostra storia degli ultimi 20 anni. Però pazienza, che dobbiamo fare, ognuno ha le sue disgrazie, noi in Italia abbiamo questa disgrazia da avere. Lei è l'Alvaro Vitale della politica. Questa è la disgrazia, carissimo, è la difficoltà, è questa che ti fanno anche parlare, Alvaro, ti pagano per parlare della politica. Disgrazia. Perché poco fa, quando dicevo servo, che non voleva essere offensivo, era perché sei al soldo di qualcuno e qualcuno ti ha regalato qualcosa per metterti là e per guadagnarti il pane. No, perché normalmente Alvaro nemmeno devo potere guadagnare. Della politica. Va bene, ma lasciamo perdere, questa è un'altra storia, un altro argomento che affronteremo un'altra volta. Mi dica, dottor Lino Banfi, l'allenatore nel pallone, per favore, non parlare, Parenzo. Lui non lo dovresti fare parlare, dovresti stare zitto, prendere lo stipendio senza parlare, perché faresti molta più figura di quello che in questo momento stai facendo e stai dicendo, perché la tua brutta abitudine è quella di non capire ciò che dice e parli a bandola tanto per fare, come si vuol dire, sensibilizzare la pancia dei cittadini. Ma perché non si vergogna la mattina quando si guarda lo specchio e dice queste cose? Vabbè, ma non ha importanza, vai avanti. No, dottor Cruciani, sono qua, vi dica. No, eccoci qui. Allora, no, ma sulla cosa c'è da chiedere ancora? Ma non questo faccia parlare, posso per favore. No, ma io non è che gli posso chiudere il microfono. A casa, così almeno non fa niente, non dice niente e non crea problemi, non crea difficoltà. Ma chi non crea problemi? È come una mosca dentro il casco. Perché già essere l'unica rarità del mondo nel campo dell'ostetricia per essere punto di riferimento di questa grande cosa, che è quella che abbiamo definito qualche minuto fa, e non vorrei ripetermi, però devo ripetermi perché la gente non capisce ciò che dico. Questo grande parto anale che c'è stato e che è Parenzo, cioè dico, basta solo questo per essere rarità e conseguentemente lo dovrebbero pagare, basta essere già quello che è senza parlare, e conseguentemente cioè, gli danno che... uno stipendio per scusi, essere Cilipo, chiara vita. Cilipo, scusi un attimo, però lei ha raccontato una cosa importante che riguarda sua figlia, cioè c'è un piccolo dramma familiare su questa cosa della scorta, no? Ma questo quando parlo con lei parlo di cose serie, quando parlo invece non so come definirlo, ma lasciamo perdere. Comparenzione. Devo parlare di banalità, perché lui parla di banalità, non sa che cosa sono le cose serie e conseguenzialmente non sapendo che cosa sono le cose serie, di che cosa posso parlare? Di banalità. Allora, se dobbiamo parlare di trauma serie, da bambino, io con lei lo faccio, lui è una persona molto equilibrata, sa fare bene il suo mestiere, fa altre cose, sa dare la battuta al momento giusto e conseguenzialmente mi dica di sua figlia, mi dica di sua figlia. Al momento giusto. Mia figlia, il dramma che ha vissuto che il giorno domenica di carnevale volevo andare per vedersi i carri e io ho dovuto dire no, per due motivi. Uno, perché dovevo chiamare la scorta e non volevo creare fastidi per chiamarle, conseguenzialmente per fare spostare due postiere per accompagnarmi. Due, perché ogni volta che sono dove ci sono gruppi di persone c'è sempre qualche persona un po' squilibrata che tenta non solo di dire qualche parola, ma qualche volta qualcuno ha tentato di aggredirmi. Questo grazie ai mediocri, a quelli che io ho definito, scusi, autisti, ma non nel senso cattivo. Ecco, in che senso? Non nel senso cattivo, perché io sono stato tassista per 3 anni per guadagnarmi da vivere. Però era una cosa negativa che lei ha detto. Sono autisti, dicendo... Autisti, riferito nel gergo dialettale siculo, significa che colui il quale è stato autista, cioè dirà una determinata mentalità di servo e continua ad essere servo e servire nei confronti di qualcuno che è definito il padrone, cioè dire predica che un sarebbe padrone, Di Pietro. Che si chiama Di Pietro, sì. E allora per la zolletta di zucchero, oppure per la bustina di zucchero, come si suol dire in gergo dialettale siculo, sì. Si permette di dire le stronzate più clamorose senza capire né il significato né il valore delle parole. Queste gentaglie di grande mediocrità che spero che scompaia prima possibile dalla vita politica e dalla vita sociale, non come uomo perché gli auguro 100 anni di vita, ma dalla vita politica e dalla vita sociale. La vita sociale. Gente mediocre che non capisce ciò che dice, che non sa fare politica e che è soltanto autista in quel senso che le ho detto. Servo, diciamo, servo di Di Pietro. Lo era e lo è e lo continuerà ad essere perché è la loro mentalità, è quel tipo di mentalità che non potrà mai cambiare. Però mi scusi, non è un po' esagerata questa cosa di sua figlia? Cioè sua figlia... È esagerata, ma io l'ho vissuta. Sarà esagerata, ma io l'ho vissuta. Come vivo giornalmente che la mia vita non ha più libertà. Sono libero di fare quello che voglio. Cioè, quando sento un Parenzo che dice solo delle cretinate, non sa dire una parola seria, perché deve soltanto mettere dare battute a tutti gli argomenti, anche agli argomenti più seri, allora mi viene un senso di repulsione anche nel discutere con certe persone, perché non hanno nessuna sensibilità, sono zero completo. Allora come uomini non valgono niente. Allora tutto è accettabile, tutto è ammissibile, ma ci sono dei momenti che ognuno di noi dovrebbe frenarsi e capire il momento. Cioè, scusa Parenzo, però su questo Cilipo ha ragione. Cioè, c'è stato un piccolo dramma familiare che riguarda sua figlia, che voleva andare a una festa di carnevale. Ho capito, e siccome non c'era la scorta per uscire, ci voleva andare col papà, che ma è il signor Cilipoti. Perché non scherziamo? È una cosa seria, che significa? Non facciamo uno per non creare problemi a quei ragazzi che dovevano venire a prendere tu e per evitare proprio le difficoltà che mia figlia poteva vivere in un momento dove c'era confusione. Cioè, io da scorta non mi poteva dire, mi poteva aggradire o mi poteva insultare. Ma siccome Parenzo non ha cervello, è zero completo come Pedica, perché sono fratelli, allora questi argomenti non li può capire e parla un linguaggio di grande mediocre com'è, e francamente uno che fa il mestiere che sta facendo lui, se non riesce a capire quando deve fermarsi e parlare di argomenti seri, sarebbe bene cambiare mestiere e conseguenzialmente farsi mandare lo stipendio a casa. Parenzo, allora, perché è un grande mediocre sotto tutti i livelli, allora tutto si può parlare, ma determinati argomenti Parenzo. Frenare. Ferma quel disco rotto lì. Ma che disco rotto, Parenzo? Sei un incapace sotto tutti i profili. Parenzo. Solo questo dovresti fare, basta. Però perché scusa, la cosa della scorta è una cosa seria. Non hai né spiritualità né dignità come uomo. Sai soltanto parlare e buttare fango per fare audience come coloro i quali appartengono alla tua stessa razza, che sono una razza che dovrebbe essere, non dico messa all'interno di un recinto, ma quantomeno messa all'interno, lasciamo perdere. All'interno, all'interno di cosa, scusi, Cilipo? No, all'interno di un recinto o all'interno di qualcosa di più grande che un campo sportivo. E poi? e poi basta. I campi sportivi vi ricordano qualcosa di tragico, drammatico? No, non mi faccia dire delle cose che non ho mai detto e non ho mai pensato. Tipo, ma è vero che lei è finito senza cattiveria, perché io parlo è con vero che, è vero che lei ha litigato soltanto con soltanto che sono arrabbiato per le sciocchezze e le scemenze che si dicono su argomenti che ognuno di noi vive sulla propria pelle e vive anche un dramma giornaliero. Sento, un'ultima cosa, è vero che lei ha scritto un libro, ci sarà la prefazione di Berlusconi, come ho letto da qualche parte? Allora, ho scritto un libro, sì, se la prefazione di Berlusconi ci sarà non lo so, io ho chiesto al presidente? Ho chiesto al presidente, vedremo che cosa succederà. Che ha detto? No, ancora non mi ha tanto detto dice, niente. Dice di sì a, dice di sì a tutti niente. Berlusconi. Sì, sì, ancora non mi ha detto niente. Ed è vero che è finito in infermeria perché ha litigato con Tremonti, come ha scritto sull'Espresso? Sì, questo sì è vero, ma no, siccome mi sono agitato, mi sono innervosito sulla questione dell'anatocismo, sì, mi ricordo. Io ho fatto una battaglia su questo argomento e ritengo ancora tuttora che il governo dovrebbe pronto. E perché è finito in infermeria? Perché sono 50 miliardi regalati alle banche, tolte alle famiglie, alle imprese. E d'accordo, ma perché è finito in infermeria? Finire in infermeria perché ho avuto un senso cioè mi girava un pochino la testa perché mi ero arrabbiato e sono andato a controllarmi la pressione che poi tutto sommato l'ho trovata nei limiti della norma 145,95. Va bene, buona serata, grazie. Grazie, gentilissimo dottore. Grazie, un abbraccio, grazie, un abbraccio. Parenzo, per quello che può valere, un abbraccione, un abbraccione di cuore, grazie. Parenzo, che devi dire? No. Volevo dire a Scilipoti che meglio un parto anale di un aborto politico come il suo partito. Quindi... L'aborto tu non sai nemmeno che cosa significa, prima dovresti andare a studiare, mediocre. Ciao. Arrivederci, 19:49, Andrea da Milano, buonasera. Una domanda, ma era veramente un onorevole della Repubblica quella persona che parlava? Signora Andrea. O era uno scherzo come Tremonti che ogni tanto fate? Non si è di... era Scilipoti? No. Era Scilipoti, certo. Grazie a Dio non ho votato Italia dei Valori, né mai la voterò se porta in Parlamento personaggi di questo livello. Volevo esprimere tutta la mia, come posso definirla, non so neanche come definirla, Parenzo, faccia finta che non gliela dite, cioè, non vale nulla, sono parole che vengono gettate al vento, proprio. È una persona che dà fiato proprio perché avrà probabilmente una profonda vergogna di sé, non lo so. Addirittura. Eh beh sì, uno che fa una cosa del genere, insomma, dai, passa da Di Pietro che vorrebbe impiccare Berlusconi a vabbè, quella è storia vecchia ormai, è storia vecchia. Cos'è? Lui non è mica quello della agopuntura questo. Sì, sì, come magari ha fatto l'agopuntura dietro al cerotto Berlusconi, che ne sa. Magari c'era anche lui là. Ah, no, ma questa è storia vecchia, non siamo più al è imbarazzante, veramente. Allo Scilipoti deve però spiegare a tutti i suoi ascoltatori, compreso me, compreso sottoscritto, perché sono anch'io il suo ascoltatore. Sì. Cioè l'architettura proprio della sua trasmissione, perché è veramente molto bella, molto innovativa. Cioè, lei è innovativo rispetto alla radio come è stato Funari rispetto alla televisione, no? La ringrazio. Complimento. Spero che lei la... Assolutamente sì. E mi piacerebbe che una volta si potesse analizzare magari un po' senza gli Scilipoti di turno, al massimo con quel fantastico personaggio che c'è a Bruxelles ogni tanto quando andate... La mia concittadina, benché lontanissima da me come mentalità politica, la finiana, che ogni tanto... Chi è? Non mi ricordo il cognome, è milanese ed è... Ah, sì, è Muscardini. No? Muscardini è un personaggio unico, diretta, il vero politico verace. Insomma. Va bene, Andrea, grazie. 1951 800 24 00 24, Umberto da Treviso, buonasera. Buonasera. Dica. Ma, l'amico di Milano, sono in linea perché sono in macchina, non so se si sente vada, bene. Vada avanti, si sente bene. Bene. Ringrazio l'amico di Milano che praticamente mi ha rubato mezzo intervento, in quanto anch'io volevo esprimere un po' di solidarietà a Parenzo. Non tanto per quanto è stato detto, ma per come è stato detto, senza peraltro mettere in secondo piano anche quella che io ritengo una grossa offesa fatta dal signor Scilipoti. Signor Scilipoti, al quale anch'io vorrei chiedergli una cosa, peccato che ha messo giù, ma lui la mattina quando si fa la barba è sempre convinto di avere di fronte una persona coerente? E con questo vorrei chiudere l'intervento su Scilipoti, perché a questo punto non ho molto da fare. Direi che credo una gran parte di noi ascoltatori, visto che siamo in due che la pensiamo nello stesso modo su due, quindi facciamo una una percentuale molto elevata di un piccolissimo campione. Ma su che cosa? Sulla presenza di Scilipoti ogni tanto in trasmissione? Su che cosa vuole fare una petizione? Solo sulla sua presenza, perché poi per come parla ha una bella padronanza di linguaggio, alle volte è anche molto gradevole da ascoltare. Sono i contenuti però che spesso e volentieri l'onorevole Scilipoti lasciano un po' a desiderare. Io, devo essere sincero, non ho mai votato i DV, mai lo voterò, anche perché sono un uomo di destra che non mi vergogno a dirlo, anche se qualcuno mi dice che sono un incoerente, ho abbracciato il manifesto di FLI, però devo essere sincero, sapere che in Italia esistono delle persone che teoricamente sono state elette dal popolo, Come Scilipoti le fa venire un po' l'orticaria, ho capito. Mi fa venire decisamente l'orticaria, io direi che responsabile. Umberto, ho capito benissimo, la ringrazio. Franco da Milano, buonasera. Buonasera. Dica. Niente, guardi, io vi ascolto tutte le sere, vi devo fare i complimenti e vi stimo molto. E proprio perché vi stimo, quando ho sentito questa ultima mezz'ora, cioè non so se stavo ascoltando la radio o se ero su Marte, perché un personaggio del genere io sinceramente non so da dove può essere venuto fuori. Poi quando sento che ha fatto un gruppo, se mi corregga se ho sbagliato, di due persone, mi viene in mente quell'altro parlamentare, non so più chi. No, il gruppo non è di due persone, è il movimento di responsabilità che è formato da due deputati. Poi il movimento di responsabilità, come sappiamo, insieme ad altri quattro minigruppi hanno creato il gruppo parlamentare di iniziativa responsabile. Questa è la situazione. So che è complicato. Sì, no, però è questo. Ma Parenzo, sei in linea? Sì, sono in linea, certo. Sei in linea. Infatti quello che poi alla grande fine discussione intorno a Scilipoti, Parenzo. Quello che poi alla fine si evince, la persona, diciamo una persona normale come me, si domanda e dice: "Ma questa gente qui che avrebbe l'aspirazione di guidarci, diciamo così, sì, ma non si rende conto che sono lontani 100.000 chilometri da noi?" Cioè, come... Franco, in realtà Scilipoti si occupa dell'anatocismo, dell'agopuntura, di tutte cose, sì, delle banche, di tutte cose che secondo lui sono molto invece vicine all'interesse delle persone. Probabilmente e anche per questo si è sentito male dopo un incontro con Tremonti. E quindi... Parenzo, ma in che zona ti trovi? Parenzo? Sì, eccoti. In che zona ti trovi? Tra Firenze e Roma. Cioè stai per arrivare in sostanza? Beh, insomma, mica passo in mezzo alle gallerie. Cosa tremenda. Sei il frutto di un parto? Anale. Anale? Sì, non l'ha detto così. Come ha detto? Parenzo, mi senti? Sì, ha detto che è frutto di un parto anale. Frutto di un parto anale. Abbiamo frutto di un parto anale. Dove sei? Non c'è più. Bene, pubblicità, poi torniamo subito. 800 24 00 24. Siamo qui, 800 24 00 24. Caro Parenzo, sempre in bilico con la linea. Però abbiamo resistito, abbiamo resistito, non lo sento. Va bene. Andrea da Roma, buonasera. Buonasera. Dica. Senta, io mi trovo spessissimo in d'accordo con lei, soprattutto proprio sull'atteggiamento, anche vogliamo un po' provocatorio, andare un po' contro, diciamo, gli schemi. E in questo momento sicuramente parlare... La posizione non cambia perché c'è la vicenda del Giappone. Però, questo però è il punto. Voglio dire, io ho fatto questo piccolo preambolo per dirle, sì, che non parto prevenuto nei suoi confronti, non sono neanche uno di quelli che si prostra al vate vendola. Però anzi, però il concetto è che secondo me comunque il problema pragmaticamente va affrontato, cioè che è solo esclusivamente quello delle scorie. Beh, non è solo quello delle scorie. No, non è solo quello delle scorie. Io credo che sia quello, perché secondo lei c'è soprattutto il problema delle scorie. Migliaia di sì, perché poi la soluzione della sicurezza, giustamente il mondo va avanti, la tecnologia migliora e quindi sicuramente ci possono essere centrali sempre più sicure. Il problema è che ci parliamo di smaltire delle cose che ci vogliono millenni per essere smaltite. Il problema secondo me è solo quello. Dunque è un problema, Andrea, che dovrebbe porsi tutto il mondo. Secondo me sì. Infatti, benissimo, non mi un problema, è un problema mondiale. Cioè, però non mi sembra che ci sono state tantissime soluzioni convincenti. Beh, da qualche parte queste scorie finiranno, no? Da qualche parte queste scorie finiranno. Quello è il problema. No, ho capito, ma uno, può anche dire che questo qua è un problema talmente grosso che è meglio rinunciare al nucleare. Benissimo, cioè, non c'è dubbio, però a questo punto bisogna considerare tutti quelli che hanno iniziato il nucleare, quelli che continuano a perseverare nel nucleare, quelli che addirittura hanno iniziato programmi nucleari nuovi, degli sconsiderati, dei pazzi, dei criminali, degli assassini, oppure delle persone che hanno in testa solamente gli interessi economici, perché c'è qualcuno che dice questo, il nucleare è un grande affare economico e prevalgono questi interessi piuttosto alla razionalità. Ci sono anche problemi politici, perché è evidente che essere indipendenti economicamente in un pianeta che è petrolio centrico, è evidente che in paesi come gli Stati Uniti o anche come l'Inghilterra o anche come la Francia è un problema centrale. Su questo io, cioè, ripeto, non vedo soltanto un aspetto, diciamo così, umano di un politico o comunque di un gestore della cosa pubblica che sia criminale o criminogeno, vedo un aspetto, come dire, un po' troppo poco attento alle cose della gente, più magari all'aspetto economico. Io so solo che di questa questione del nucleare in Italia si parla da decenni, come sappiamo. Il governo ha avviato un suo progetto, qualcuno, l'opposizione in particolare, ma non solo l'opposizione, anche scienziati e tecnici, si possono trovare scienziati e tecnici che sono da una parte e dall'altra, naturalmente lo considerano un piano irrealistico, non è il caso di puntare su questo, perché ci vogliono troppi anni, eccetera eccetera. C'è invece chi pensa che si possa fare, e comunque bisogna comunque in ogni caso tornare a parlare di nucleare. Insomma, è un dibattito aperto che io credo non si possa poi modificare se non discutendo della sicurezza dopo quello che è successo in Giappone, che è evidentemente un caso molto estremo. Domenico da Bari, buonasera. Salve Cruciani, buonasera. Dica. Parenzo, scusi un attimo Domenico, qualcuno ti invita a querelare Scilipoti a donare il risarcimento alla ricerca sulle malattie mentali. No, non quererò mai Scilipoti perché ho compassione di lui, perché, figurati per quello che ha detto, poveretto, ma è l'aspetto politico che mi inquieta di Scilipoti, perché è l'aspetto più deleterio di un epifenomeno berlusconiano. No, ma adesso non c'entra, che c'entra l'epifenomeno berlusconiano con Scilipoti, pure tu la metti. Sì. Meno male che non ti sento, vai, la linea è caduta un'altra volta. Domenico da Bari, allora. Sì, salve Cruciani, volevo parlare circa il nucleare, volevo dare il mio contributo, insomma, per fare un pochettino, appena spero, se sarà possibile, un po' di chiarezza, diciamo, sull'argomento. Io premetto, sono un fisico, quindi non sono uno specialista della materia, questo è sicuro. Mi occupo campo delle particelle elementari, gli esperimenti che si fanno al CERN adesso, diciamo. Però credo un pochettino di avere un po' più le idee chiare, diciamo, su quello che sono le problematiche del nucleare. Allora, sicuramente la prima problematica è la sicurezza. Allora, della sicurezza tutto si può dire, ma la centrale nucleare ha qualcosa di diverso rispetto agli altri sistemi che l'uomo ha potuto concepire. Ad esempio, se un aereo cade, ovviamente è una disgrazia, una sciagura, il problema è circostanziato, rimane lì. Non si ha certo, non ci sono le radiazioni, eccetera eccetera. Allora il problema sono le radiazioni, sicuramente il problema è lo stoccaggio. Ahimè, non abbiamo ancora la tecnologia per far, diciamo, tra virgolette, scomparire quello che è il materiale nucleare radioattivo. Lo dovremmo stoccare. Per stoccare diamo solo una certa sicurezza per qualche centinaio d'anni, non di più, in contenitori particolari, sotto gli oceani, quello che si vuole, ma purtroppo non abbiamo ancora la tecnologia per eliminare questo problema. Allora, io come fisico, in linea di principio, sono favorevole alla costruzione, perché sicuramente le centrali nucleari sono forse la cosa più sicura che l'uomo abbia concepito. E però ci sono i però adesso. Allora, un però è questo qui, e questo è un fatto tecnico. Si spera che nel futuro sia tecnologia ci aiuti, e la ricerca scientifica, ahimè, sempre più penalizzata, perché poi vi devono spiegare come si fa a fare ricerca scientifica per cercare di migliorare certe cose, e poi pretendono che gli scienziati debbano risolvere i problemi. Lasciamo perdere, è un altro discorso. Io ho un altro dubbio forte, che è più un dubbio da cittadino che adesso, cioè? Che non da fisico, cioè questo: i in una nazione, Italia parlo, che gli altri l'abbiano costruito, ovviamente il rischio beneficio ogni nazione, quando non esistono né scemi né cretini né stupidi, hanno valutato ovviamente un fatto economico, sociale, eccetera, eccetera, uno vuole vivere meglio e rischia, ok, perfetto, punto, e non c'è problema. Io però ho un dubbio fondamentale per quanto riguarda l'Italia, cioè noi non siamo capaci di togliere le immondizie a Napoli. No, però non i mi percolati ci stanno, ci stanno inquinando falde, eccetera. E allora? Siamo sicuri che nella costruzione delle centrali nucleari saranno fatte, tra virgolette, a regola d'arte? No, però Domenico, mi scusi, questo è un discorso, no, francamente, ma è irricevibile, no, perché, questo. Scusi, è irricevibile questo discorso. Un palazzo, no, no, lei dice, siccome in Italia le cose vanno in un certo modo, sono sempre andate in un certo modo. Io non mi fido molto, sì. Allora, non bisogna fidarsi, allora non bisogna costruire niente, non bisogna fare le strade, non bisogna fare le centrali nucleari. No, bisogna... no, tanto è vero che le strade cadono, tanto vero che i palazzi ma che strade cadono, ma che vogliono gli studenti. Però ma... ovviamente su queste cose, ahimè, Cruciani, sono siccome abbiamo una tara in quanto italiani, non so in quanto no, non è una tara, è una constatazione, è un dato di fatto. Beh, ho capito, cioè, insomma, è un dato di fatto che purtroppo in tutte le cose dove c'è un grande interesse economico, perché le centrali sono anche un costano miliardi e miliardi, ahimè, purtroppo c'è qualcuno che mi assicura, allora, però Domenico, questo qua al 100%, no, ma ho capito lei vuole dire c'è qualcuno che mi assicura al 100% che saranno costruite bene? Domenico, ma dovrebbe essere così per ogni cosa. Parenzo, ci sei? Sì, che ci sono, certo, ho sentito. Allora, pubblicità, sono... direi pubblicità, poi i titoli della 7 che sono molto lunghi, come al solito, poi Carla, provincia di Bari, Giuseppe, Reggio Calabria, Caterina da Como, Massimo, provincia di Lucca. Pubblicità. Siamo qui alle 20:11, caro Parenzo, prima dei titoli della 7 che sono lunghissime. Che serata con Scilipoti protagonista, ha insultato tutti i suoi ex colleghi di partito. Parenzo, sì. No, vabbè, ci sta, poverino, niente, non ha niente da fare tutto il giorno. No, ma dicevo prima che è un epifenomeno del berlusconismo, che non è frutto di Berlusconi, ma è frutto della politica della Seconda Repubblica, cioè un uomo di cui noi non ne conoscevamo l'esistenza fino a poco tempo fa, no? Lo conosciamo perché poi diventa responsabile, passa da Di Pietro al sostegno a Berlusconi per l'agopuntura, ed è un epifenomeno della Seconda Repubblica, tutto qui, poverino. Poi, per carità, ha diritto a fare le sue importanti battaglie, ricordato. E non c'è più Parenzo. Carla dalla provincia di Bari. Carla? Sì, buonasera. Buonasera, pronto? Carla, mi sente? Sì, pronto, io la sento, lei? Eccoci qui, la sento, dica. Ecco, allora buonasera, innanzitutto io sono un'assidua ascoltatrice di Radio 24, bene. Una radio che mi piace tantissimo perché ho bisogno sempre di imparare, sempre di acculturarmi, sempre di più. Sì, si sente la radio solo per questo motivo, per acculturarsi, Ci sono tanti motivi per cui si sente la radio. Io la sento in particolar modo per questo. Benissimo, ho sempre voglia di imparare, cerco sempre anche in televisione programmi che mi diano qualcosa. Benissimo. Devo dirle questo, forse lei rimarrà delusa dal mio intervento. Ma assolutamente no, non rimango mai deluso. Io non sono qui ad intervenire sul nucleare, perché poi tra l'altro ritengo che non sia neanche bene. Il momento più propizio. Brava. Non si potrebbe, oggi non si può parlare del nucleare perché ci manca proprio quel discorso di obiettività e di serenità che invece è necessario brava, per affrontare brava. Questo argomento. Volevo soltanto dirle una cosa, mi la dica. Prego, mi perdoni, mi scusi. Una cosa che io non sopporto più è sentire questi politici che si insultano, che litigano, che usano volgarità a dismisura. E poi le dico, per piacere, basta con questa storia di Berlusconi e Rubi. Ne abbiamo. Ma veramente stasera non abbiamo parlato, abbia pazienza, Carla. Lo avete accennato all'inizio. Beh, ho capito, c'era una notizia che era la chiusura delle indagini. Ho capito, Carla, mi scusi. Ma non ho parlato stasera, zero. Cioè, no. No, io all'inizio trasmissione ho sentito. Ho capito, abbiamo dato delle notizie, ma insomma, ecco, non abbiamo concentrato la trasmissione su Berlusconi e Rubi, cosa che abbiamo fatto più volte. Voglio, non c'è dubbio. Voglio appunto dirle questo, basta con questi pettegolezzi, con queste. Cioè, pensiamo veramente a diventare un popolo un attimino più al di sopra delle righe. Ecco. Però mi scusi, questo. Carla, il mio compito non è quello di dare istruzioni al pop, per fortuna, né quello di dare indicazioni su come bisogna comportarsi, né. Lo so, ma è un altro, Carla. Lo so perfettamente. Però guardi, mi creda, io mi sento mortificata quando sento questi politici che si insultano, che litigano in diretta, tipo questi due signori che sono suoi ospiti telefonici questa sera, insomma. Veramente, mi creda, proprio mi cadono le braccia. Va bene, Carla, grazie. Grazie mille. Ivano da Ravenna, buonasera. Sì, salve. Dica. Salve, sono Ivano. Ascolti, una domanda. In questi giorni stiamo assistendo a tantissime problematiche, dalla Tunisia all'Egitto, alla Libia, sì, purtroppo al Giappone. Sì. Come si fa, sì, a dedicare un'ora del tempo a Scilipoti? Come si fa? Come si la fa? Mia domanda è come si fa? Io adoro la sua trasmissione. Ivano, forse non è, lei non ha ben presente una cosa che è molto semplice. Davvero non è complicato spiegarla. Se qualcuno non lo capisce, pazienza, allargo le braccia. Cioè, questa qua non è una trasmissione che ha un suo schema, una sua traccia, una sua scaletta. E non è una trasmissione che si occupa, dovendo approfondire i temi di un... No, è una trasmissione che spesso ci porta su terreni a noi ignoti, in cui succedono delle cose che non avevamo previsto, per cui non è che abbiamo programmato di tenere Scilipoti per un'ora qui. Peraltro non è stato un'ora, ma insomma molto meno, perché i tempi radiofonici sono molto inferiori a quelli poi lordi. Ma semplicemente è successo perché in quel momento ci divertiva fare così, perché abbiamo lasciato parlare Scilipoti sui suoi ex colleghi, su Parenzo, eccetera eccetera. È successo, è andata così, Ivano, è la vita. Mi scusi? È la vita, è successo, l'abbiamo fatto parlare sui suoi ex colleghi, no, su Parenzo, hanno litigato con Parenzo, cioè c'è un elemento di, se vuole, casuale. Nel dare importanza al signor Scilipoti. Ma l'importanza di... anche questo non è complicato, so che è una cosa un po' giornalistichese, eccetera, però se vuole gliela spiego. La questione della scorta a Scilipoti, questo è stato lo spunto iniziale, cioè qualcuno protestava perché a Scilipoti, a Razzi, due ex esponenti dell'Italia dei Valori, è stata data la scorta. Molte persone si sono arrabbiate, incazzate per questa cosa qui, e dunque abbiamo chiamato Scilipoti a rispondere a queste persone. Una cosa assolutamente normale, logica, se vuole, per quello che è la zanzara. Ha capito o non ha capito? Chiarissimo. Benissimo, traffico. Eccoci qui, 800 24 00 24. Parenzo c'è o non c'è? Non ho capito, no, non c'è. Bene, Michele da Milano, prego. Pronto? Sono io? Dica, sì. Sì. No, volevo solo fare una considerazione, che in realtà io sono sempre stato convinto che il ceto politico per il 10% è meglio della società civile, per il 10% è peggio, ma per l'80% è lo specchio esatto di quello che è il paese. E quindi mi fa un po' specie tutta la gente che si scandalizza di Scilipoti piuttosto che di altri, piuttosto che del clima generale, perché ho la sensazione che sia abbastanza, come dire, il vero specchio di una, che chiamarla civile è abbastanza complicato. Tutto qua. Vabbè, Michele, in che senso? Mi spieghi meglio. Nel senso che io sono convinto che esista una cultura diffusa, che sia una cultura diffusa un po' irresponsabile, un po' facilona, un po' cialtrona, un po' da commedia all'italiana, e che quello che una volta era un po' divertente, poi alla fine ha preso il sopravvento, è diventato costume diffuso. Quello che una volta si diceva al bar dopo qualche Campari sono diventati slogan politici, ci sono addirittura partiti di una grande rilevanza in questo paese che hanno costituito la loro presenza su slogan, posizioni, idee che una volta nessuno sarebbe sognato di esprimere, se non dopo qualche Campari di troppo al bar. E invece adesso no. Vabbè, però mi deve fare un esempio. Quando interviene dicendo le cose che dice, piuttosto che Scilipoti, piuttosto che altri, danno lo specchio di un paese che non ha più la capacità di distinguere quello che uno può dire in condizioni abbastanza alterate da quello che uno può dire invece in cui è chiamato a essere responsabile. Va bene. Questo vale per tutto, vale per il nucleare, vale un po' per tutto. Cioè, tutto funziona un po' così, un po' a spanne, un po', e questo purtroppo secondo me è causato dal fatto che non esistono più filtri. Ma no, Michele, guardi, la cialtroneria della politica o comunque i politici che puntano alla pancia o che parlano in un certo modo sono un prodotto certamente della Seconda Repubblica, prima ce n'erano meno, anche perché la comunicazione era un po' diversa. La ringrazio. 800 24 00 24, Caterina da Como, buonasera. Buonasera, Cosani. Dica. Io vorrei intervenire sulla questione del nucleare, ovviamente. Una cosa che vorrei chiedere a lei anche un suo parere. L'altro giorno appunto la prestigiosa Como, all'alba di quello che sta avvenendo in Giappone, ha dichiarato che il governo andrà avanti sul nucleare, che non bisogna strumentalizzare quello che sta succedendo, eccetera. Però si è evidentemente dimenticata, perché non ha proprio menzionato il fatto che il 12 giugno i cittadini saranno chiamati a esprimere il loro parere con un referendum. E quindi io mi chiedo quanto questo referendum conta veramente, perché qui si parla già di andare avanti. L'altro giorno Sarkozy ha dichiarato che l'Italia, già, speriamo che l'Italia confermi il suo ordine dei 4 reattori dalla Francia, eccetera. Tutto questo, vorrei capire il ruolo che questo referendum, che i cittadini hanno. Ma guardi, Caterina, io credo che, come è successo nell'87 con il referendum, non mi ricordo quando si è tenuto, dopo l'incidente di Chernobyl, credo che un referendum in cui fosse cancellata la legge sull'istituzione di nuove centrali in Italia porterebbe in automatico in Italia la cancellazione del programma nucleare. Su questo non ci sono dubbi, anche se poi diversi referendum sono stati successivamente disattesi. Grazie. Giuseppe, Reggio Calabria. Dica. Niente, penso. Lorenzo, ci sei? Sì, vado e vengo, come l'intelligenza di Scilipoti, vado e vengo. Chi chiamiamo? Vittorio Sgarbi oppure Zamparini? O rinviamo Zamparini domani? Una serata di moderati. A questo punto varrebbe la pena forse Sgarbi, no? Forse a questo punto sì, rinviando Zampa domani, che dici? L'ottimo Zamparini, sì, certo. Vediamo, va. Proviamo con Vittorio. Proviamo con Vittorio, va. Chiamatelo. Giuseppe, prego. Sì, eccoci. Solidarietà a Parenzo, innanzitutto. E niente, dicevo che proprio la Calabria. Ma non ha bisogno di solidarietà a Parenzo, No, ma certo, è stato un corpo, al corpo di Alessio. Sicuramente dal personaggio da cui arrivava, diciamo, l'invettiva, sicuramente in questo senso non ha bisogno di solidarietà. Dicevo, per quanto riguarda le centrali nucleari, proprio la Calabria dovrebbe proporsi per ospitare le centrali nucleari, no? Almeno una o due, così potrebbe attrarre cervelli. Perché no? Potrebbe attrarre lavoro intellettuale, ecco. Poi una nota, magari bene, le centrali nucleari al sud, questa è la sua proposta, così almeno certo, cervelli al sud, sviluppo al sud, indotto e cose di questo, non è una cattiva idea. E poi soprattutto in questi giorni proporla è abbastanza temerario, ma lo so. Poi dicevo, la Sicilia c'ha il petrolio, gas, la Calabria avrebbe il nucleare, la Basilicata petrolio, quindi l'energia arriverebbe dal sud, no? Potremmo bilanciare il nord-sud. Non so se è d'accordo con il nucleare al sud, che a proporre questo ascoltatore, Vittorio Sgarbi, buonasera. Hola. Come stai, Vittorio? Bene, bene. Dove sei? Dove ti trovi? Sono al Ministero. Al Ministero dei Beni Culturali, no? Hai occupato il Ministero dei Beni Culturali, no? No, sono un altro ministero bellissimo, che è il Ministero delle Regioni, degli Affari Regionali, una bella sede. Dal signor Fitto, ormai sei. Da Fitto, sì, abbiamo visto Fitto e stiamo incontrando adesso l'assessore alla cultura della provincia di Bari e stiamo guardando dei quadri falsi appesi alle pareti che fanno schifo, sarebbero da bruciare. Solo ve li trovi. Queste patacche con delle cornici di merda andrebbero bene soltanto alla totale incapacità di capire del tuo compagno Parenzo, sì. Parenzo, insomma. Ma Volpe Pasini accanto a te? Volpe Pasini è un uomo lucido invece, un uomo sensibile. Ma è accanto a te Volpe? Sì, di fronte, per sapere c'è Mitico. Luci Pasini, assessore alla cultura, Volpe Pasini, Nicola Sballario e la Tagliabue. Ma qualcuno dice che tu avresti bisogno di una badante, di un conduttore, ho letto da qualche parte, perché pare. Io ho una badante, in questo momento ho una badante vicino a me. Sì. No, ma in televisione per questo programma. Infatti avevo scelto la mia fidanzata ufficiale centrale, la quale si ribella, però, perché benché sia una donna obbediente ai principi generali della. Assolutamente, poi a te assolutamente prona ai tuoi voleri, come dire. Prona. anche eretta, eretta i miei voleri. Vabbè, comunque, insomma, però, insomma, è una persona che... Sei il solito antifemminista, tra te quella quell'incapace di Parenzo, ma è lì quel Parenzo? Sì, è in treno, purtroppo la linea va e viene, adesso torna fra poco, adesso, va bene, va bene. Adesso torna. Senti... Quindi, no, niente, abbiamo intanto definito un'ipotesi fatta del 27 aprile, però non è definitiva perché... Ancora, qui slitta di giorno no, in giorno. No, non è che slitta, no, doveva essere comunque metà di aprile, ma se scegliamo il mercoledì, il primo mercoledì libero, però siccome potrebbe darsi, rivelazione che ti faccio, sì, che la norma applicata in virtù del radicale Bertrandi la volta precedente portò a sospendere le trasmissioni di informazione politica che erano Ballarò, sì, Anno Zero, l'ultima parola e Vespa, sì, si possa estendere anche alle prossime amministrative, non è detto che io mi trovi in un deserto da solo, perché la mia trasmissione culturale... Però non puoi parlare di politica a quel punto. Appunto, ma la politica, posso parlare della politica al tempo di Pericle, però. Quello sì, quello sì. Anche al tempo di Federico II. Però sai, la politica al tempo di Pericle, la gente no, cambia. Io ne parlo, ma loro non capiscono. Se io, per esempio, se parlo di Erode, di Erodiade e di Salomè, sì, chi non vi vede Berlusconi, la Minetti e la Rubi? Ah no, beh certo. Io certo. Cambio i nomi, dico, ecco Erode, ecco quel maiale di Erode. Ma lo sai Vittorio oggi che cosa è venuto fuori? È venuto fuori che nella richiesta di chiusura di indagini, insomma nell'atto di chiusura di indagini su Lele Mora, Minetti eccetera eccetera, i PM hanno ricostruito le famose notti di Arcore, no? Sì. E hanno detto che Berlusconi avrebbe avuto 13 rapporti sessuali con Rubi, 13, in 13 occasioni. Ci sarebbero stati questi rapporti sessuali, poi dobbiamo vedere le prove eccetera eccetera, e che abbia pagato 33 persone. Questo viene fuori, 33. Beh, 33 persone, è lecito pagarle come vuoi, cioè il dato di fondo che abbiamo già affrontato un'altra volta, cos'è la prostituzione? Sì. No, non ne posso più. No, è molto semplice. Ecco, è tornato Parenzo, aspetta, non Vittorio. Non ne posso più di sentire giustificazioni con due persone che non si conoscono. Aspetta. Le quali viene pagata sulla base di una richiesta, cioè tu vai per strada. Non c'è dubbio, non ci sono più le case chiuse, per strada. Ti affacci al finestrino come Sircana e dici quanto vuole. Beh, no, Sircana non è mica detto che. Ma cosa dice? Il metodo è quello: affacciarsi al finestrino perché non si può altro che battere in strada, non si può stare in una casa chiusa. Ci sono anche i telefonini, come sai, ormai. No, io parlo del fatto che per eliminare la tariffa. Sì. Se invece io scopo una ragazza, sì, e dopo l'ho scopata, senza sua richiesta, le regalo una Ferrari, sì, sono cazzi miei che non hanno niente a che fare con la... Beh, le richieste ci sono state però, non è che non ci sono state. No, non c'è nessuna richiesta. Questo è, ci sono delle possibilità, dei desideri, delle, come dire, ragazze che confidano nella generosità, senza sapere però se saranno 2.000, 3.000, 5.000, 8.000. Sì. La tariffa è precisa, puoi trattare sulla tariffa, ma non puoi essere penalizzata come prostituta perché hai accettato un regalo postumo alla prestazione. Ma queste cose le hai dette a Ghedini? Vabbè, Ghedini non so se capisce la materia. Però deve difendere Berlusconi però. Arriviamo alle 13 scopate di Rubi. Di Rubi, sì, 13. Ora, 13 cos'è, sì, una scopata? Una scopata, sì, è un atto fra te... No, lui dice sesso a pagamento 13 volte, non è specificato il sesso. No, cosa no, pagamento, lui può pagarla quanto vuole. Cioè, io pago una persona come pago un ente di assistenza, cioè do dei danari, io voglio pagare Maria Teresa di Calcutta, le do 13 volte dei danari. Vabbè. La mia Maria Teresa, per me laico e Rubi, saranno cazzi miei? Cioè, ma non è che non capisco perché devo dare dei soldi a Don Gelmini o a Don Ciotti. Beh, e non è un po' diverso, Vittorio, è un po' diverso. No, è diverso, perché io le do per 13 volte danaro, sì, ma tu devi dimostrare che ho avuto un rapporto sessuale, altrimenti dov'è la prostituzione? Ah, siamo sempre lì, bisogna dimostrare il rapporto sessuale. Allora, cos'è un rapporto sessuale? È un rapporto fra due persone, sì, tra loro compiono un atto che non è pubblico. Ma tu sai che alla minorenne si può anche... No, basta la tastata, finire, basta la tastata. Cazzo, lasciami finire. Sì. Se io dico che non l'ho avuto, sì, e lei dice che non l'ho avuto, sì, chi potrà dire che c'è stato? Che ne so, testimoni, intercettazioni. No, ma cosa c'entrano le intercettazioni? Sono parole, non cazzi. Sono parole. Ah, su questo non c'è dubbio. Sto dicendo adesso che sto infilando il mio uccello. No, fermo. È vero? È falso? No, io ti sto garantendo, sto infilando il mio uccello nella tagliabue. È ottimo, guarda, adesso lei si sposta un po', lei me lo tira, e come voglio dire, saranno parole. Sono parole, sì. Una foto Nel rostello di Berlusconi, nella gnocca della oppure devono andare a dar via il culo. Devono smettere di rompere le palle con delle cose che non esistono. Volpe, aiutami tu, Volpe, aiutami tu. Torno subito, c'è la borsa, c'è la borsa. Parenzo, recupera. Siamo qui 2035 800 24 00 24. Parenzo, ci sei? Sì, ho sentito un po' delle cose del professore. Sono basito ormai, perché si può giustificare tutto, capito? Cioè, per Vittorio è normale pagare una minorenne, va bene, basta. Ne prendiamo atto, non occorre fare 50 trasmissioni. Ma coglione questo Parenzo. È normale pagare chiunque. Ecco, perché non vedo cosa ci sia rimane dare soldi a qualcuno. Sì. La prostituzione è una cosa diversa. Si vede che tu sei abituato a dar via il culo, per cui No, siamo calmi, già abbiamo esagerato. Non è una prostituta. È una ragazza, come tutte le ragazze, ha bisogno dei soldi per il telefonino, ha delle necessità. La paghetta dei genitori è prostituzione. Beh, non solo per il telefonino. Ma ti rendi conto che con la tua intelligenza è una che ti chiede una tariffa che tu paghi. Se io con la tua splendida dialettica mi è consentito, le posso regalare un motorino? Le posso regalare un'automobile? Però scusa, Vittorio, vogliamo sentire Ferrara che in questo momento parla di Rubi su Rai 1. Sentiamo, sentiamolo insieme. La Mercedes per la prostituzione. Rubi è entrata in una storia più grande di lei. E bisogna naturalmente sapere valutare il destino di una persona, la sua stessa fisionomia, con amore, con carità, con misericordia, anche con senso comune. Nessuno è una cosa. Ci sono comportamenti che possono e devono essere criticati, che possono essere oggetto di irritazione da parte di ciascuno di noi, ma nessuno è necessariamente, irrimediabilmente una cosa che deve provocare il nostro disgusto. La persona umana va rispettata. Io capisco il giudizio severo di molti italiani su queste storie. Loro dicono, ma come, la vita è così complicata, io ho un figlio che ha un lavoro precario, non riesce ancora a trovare un posto più solido, strutturalmente più solido, io pago il mutuo della mia casa e lì c'è un giro di soldi, Berlusconi è un uomo molto ricco, ci sono regali da migliaia di euro, macchine, insomma capisco che la gente possa avere, ma mai il rancore, mai il disprezzo, appunto mai trasformarsi in cuori di pietra, eccitarsi ed eccitare gli altri all'odio verso le altre persone. Questa è veramente una cosa indegna della nostra civiltà e della nostra. Queste cose succedono nel paese dei talebani, da cui gli americani, per fortuna, gli inglesi, gli olandesi e anche i nostri bravi soldati italiani ci hanno liberato. Lì negli stadi si lapidano le adultere. Succedevano nel 600, nella costa orientale degli Stati Uniti, quando vigeva il regime del puritanesimo e le adultere dovevano girare con una A cucita sulla veste, la lettera scarlatta, una A rossa, adulterio. Io non ce l'ho con loro, con questi sciagurati, disgraziati, che a Maglie, la città dove è nato un grande leader cattolico come Aldo Moro, hanno inveito contro questa ragazza cercando di umiliarla e appunto di linciarla moralmente. Ce l'ho con chi li eccita, ce l'ho con chi non capisce la regola prima, il rispetto degli altri, che deve essere, come dire, cruciale e sempre presente nel nostro animo. Con quelli veramente ce l'ho. E a Rubi posso solo augurare di trovare la pace, di fare la cosa giusta. Sono fatti suoi. Ha avuto questa grande illusione, ha pensato che appunto un uso spregiudicato del suo corpo, della sua bellezza, perché è bella e desiderabile, potesse portarla chissà dove. È incappata in una storia che sta diventando sinistra, truce. A Rubi faccio l'augurio di trovare la pace e di fare la cosa giusta, come credo lo faranno la grande maggioranza di coloro che mi ascoltano. E naturalmente ricordo che nel Vangelo c'è scritto che quel grande ebreo palestinese, Gesù, che per i cristiani di tutto il mondo è l'unto del Signore, è Cristo, è luce da luce, di fronte a una folla che voleva lapidare un'adultera, interpellato come maestro di giustizia, prima fece uno strano ghirigoro nella sabbia con un bastone. Poi li guardò e disse: chi è senza peccato scagli la prima pietra. nessuno scagliò la pietra e l'adultera fu congedata da Gesù con le parole: va e non peccare più. A domani. Mario da Roma, Parenzo è tornato intanto. Sì, vabbè. Una cosa in difesa di Rubi contro quelli che vogliono lapidarla. In realtà nessuno vuole lapidare Rubi. Appunto, da un punto di vista dialettico strepitose, belle le citazioni del Vangelo, ma cosa c'entra col caso di cui si sta parlando? Vabbè, c'entra sempre l'atteggiamento che qualcuno ha avuto nei confronti delle cosiddette morale, escort. Io non vorrei che Sgarbi e anche Ferraro la ponessero su un piano etico o morale. Io voglio metterla su un piano prettamente politico, cioè non è normale fare dei regali e pagare una minorenne per un primo ministro, né lo è per un cittadino qualunque, questo è il punto. Sì, questo no, è il punto, unico, unico. Regalare le case alle olgettine, avere un conto che è destinato a fare i regali a queste persone, non è normale, se loro per loro è normale. No, non è normale, è abbastanza, oddio, ognuno fa quello che vuole con i propri soldi naturalmente. No, ma su questo non c'è dubbio, ma qui stiamo parlando del capo del governo che secondo l'inchiesta organizzava sistematicamente delle festine a sfondo sessuale, questo è il punto politico. C'è da richiamare Sgarbi a un altro numero, adesso ve lo do, perché sono finite le batterie sul numero che utilizziamo di solito. Sandro da Roma, 800 24 00 24. Sandro, buonasera, io sono un vostro assiduo ascoltatore, ho 60 anni, sono un medico e mi vergogno per quello che ha detto Scilipoti, sia a Parenzo che al senatore Pedica, e non capisco come faccia a rappresentare la categoria dei medici. So che ho scoperto stasera che ha una scorta. Penso che come nullità politico-parlamentare, non so di che abbia paura Scilipoti, forse vista l'altezza ha paura di essere calpestato, però volevo farle anche i complimenti perché stasera abbiamo sentito Scilipoti, abbiamo sentito Sgarbi, abbiamo sentito Ferrara e abbiamo capito… Cosa ha capito lei? In questo paese da chi siamo governati. Ma veramente che Sgarbi non governa nessuno. Farà questo paese? Sgarbi e Ferrara non governano nessuno e anche Scilipoti non governa nessuno. No, ma non governano, cioè fanno parte di quello schieramento, non è questo ma, il problema. Ma guardi le persone in quanto persone, non inquadri la gente in una categoria, in una casella, non metta le persone in una casella, no? Lei inquadra le persone, le vuole incasellare. Scilipoti è chiaramente un politico nella maggioranza, Sgarbi è diciamo un battitore libero, almeno secondo me. Dopodiché Ferrara fa il giornalista, ha le sue preferenze, le sue simpatie, le sue antipatie. Vittorio, hai letto quella cosa che è uscita oggi su Bocchino e la moglie? Ma posso immaginarlo, perché conosco il padre della moglie, quindi posso, io so tutto di queste vicende, ma non ho capito bene qual è la vicenda. No, la roba della moglie di Bocchino che ha rivelato che Bocchino e la Carfagna avevano una relazione, insomma. Sì, sì, vabbè, questo me ne frega poco. Ti voglio spiegare al mio interlocutore che ci ascolta. Parenzo, ci sei? Pacata, mi senti? Pacata e serena. Io non so chi sia bene Scilipoti, Ferrara. No, ma non c'entra non niente. Non condivido le cose che dice Ferrara. Io dico semplicemente una cosa. Io ho avuto 16 anni. Tutti noi abbiamo avuto 16 anni. La legge che non il centrodestra ha votato, ma quella che la sinistra voleva, indicava il limite della protezione minorile tra i 14 e i 16 anni. Vabbè, questo però... Lasciami finire. Sì. Volete che mi finisci le cose o dobbiamo polemizzare? Dimmi. Allora, la sinistra aveva posto un partito, una sbarra più indietro, nel senso che nel caso che fosse passata quella legge, la nostra non sarebbe neanche entrata nella fattispecie della protezione minorile. Io cerco semplicemente di dire che, come spiega la Marita Piola, Lombardi Piola, una ragazza che è in discoteca a 12, 13, 14, 15, 16, 17 anni ha una visione della vita fatta di piacere, di Prada, di scarpe belle, ed è un piacere lecito. Nella vita non c'è solo il sacrificio. Ma questo, figuriamoci. No. Allora, se qualcuno ti regala qualcosa, tu sei contenta. non è prostituzione, dico a quello spettatore che è come l'Inquisizione, è la felicità di avere qualcosa che a una ragazza di 16 anni piace, piaceva a mia sorella, la quale ha avuto i rapporti che ha voluto, all'età che ha voluto, e non dirò quale, a me piaceva a tutte le ragazze che hanno deciso di ma stare com'è con questa storia di tua sorella? Scusa, com'è? Non per prostituzione, per piacere. Io ho ricevuto in dono una Jaguar quando avevo 23-24 anni da una donna ricca, ero contento, non ero un prostituto, ero felice di un regalo. Allora, una ragazza come Ruby, sì, che viene dal Marocco, però secondo te, scusa, il reato di che va a 40.000 euro al ballo delle ributtanti, che va a fare prestazioni in discoteca, è come non è la Rai. Allora, che gli ridia Berlusconi, che gli ridia quello della discoteca, il magnate austriaco, una vita normale che non va giudicata con la destra o la sinistra, il sacrificio è il piacere. D'accordo. E fino a ieri era lecito, adesso il piacere è peccato o prostituzione. Quel signore ha per caso avuto i rapporti sessuali a 17 anni e li ha avuti per piacere o perché è un prostituto? Sì, però... Ma che non faccia la morale a me, a questo cinipoti. Io dico la vita come la vivo io, come la vivono tutti i ragazzi, e l'hanno vissuta per il loro piacere, compreso. Allora, quando è che si inquadra? Scusa, Vittorio, quando è che ti... pure che fosse avaro, no, assolutamente. Quando è che si inquadra? Allora, si potrebbe inquadrare, secondo te, il reato quando di prostituzione? Ma fa la troia per strada e ti chiede una tariffa. Ma non c'è la prostituzione. Avete per strada? No, non c'è solo. Ma non c'è solo non quella per strada. Andate a scuola. No, la ma prostituzione è un lavoro. È su lavoro, questo non c'è, ma non c'è solo quella per strada, 300 su. Euro e io le do 300 euro. Se io vado a letto con una ragazza e le faccio un regalo, spero che sia contenta. Sarebbe parte lesa se non le regalassi nulla. D'accordo. Deve capirlo questo. Però non c'è, ma guarda, io posso anche essere d'accordo con te, ma non ma c'è non solo quella per elementare, sembra che no, abbiate messo in vita vostra. No, no, perché che c'entra? Avete sempre scopato per soldi, per cosa? Scopate, figlie, siate felici. Siate felici. E anche Ruby sarà stata contenta di scopare, se mai ha scopato. E se ha scopato sono cazzi suoi. Non deve saperlo la Boccassini. Che vada a cagare la Boccassini. Fermo, fermo, fermo, fermo, fermo. La pipì, la popò, lavarmi le mani. Sì. Io vado a casa di quello, posso lavarmi le mani, vado in bagno e faccio la pipì. Sì. Dovrò spiegare se ho scopato, mi sono fatto una cosa. Però dovrò, esistendo, Vittorio, esistendo il reato, vogliamo lasciare la libertà d'accordo del sesso o no? Esistendo il reato, esistendo il reato di prostituzione minorile. Ma non è prostituzione, scopare non è prostituzione. No, ma non ho detto questo. Non è prostituzione, vabbè, solo per Parenzo. Parenzo, dove sei? Non prende! Traffico, traffico. Siamo qui, allora voglio fare un'ultima domanda a Vittorio Sgarbi, poi lo lascio, ed è questa. Caro Vittorio, ma ho letto che ti sei riconciliato con la Moratti. Come, gliene hai dette di tutti i colori e poi ti sei riconciliato con la Moratti? Vabbè, anche qui mi sono io, ho fatto un armistizio. Perché... Beh, un armistizio, baci, abbracci, sorrisi. A parte che sei mal informato, perché la baciavo e la abbracciavo anche dopo che avevo litigato. Sul piano politico continua il mio antagonismo con lei, ma la mia funzione, siccome uno non ha tempo da perdere in cose inutili, la svolge perfettamente il FLI. Quello che io avrei dovuto fare, o avrei voluto fare, era portarle via dei voti. Ammesso che Fini ami la Moratti, il suo odio per Berlusconi è tale che alle uniche elezioni nazionali, che sono quelle di Milano, così esplicitamente rappresentative, deve candidare uno che le porterà via dei voti. Quindi ho spiegato in maniera molto semplice, cara Letizia, non farò una lista contro di te perché la fa già il FLI. Quindi io non ho bisogno di portarle via dei voti. Se no l'avrei fatta. E allora ho fatto un armistizio dicendo: se tu vinci bene, se perdi non sarò io che avrò contribuito a farti perdere con un doppione di una lista che comunque Fini è costretto a fare. Ma questo, siccome la vita è fatta non di rigori ma di opportunità, a questo punto è inutile che vada a fare quello che ha già fatto un altro. No? Ma qualcuno dice che potresti tornare a fare l'assessore alla cultura, non credo. Ma no, sono mille cose da fare. Non volevo aprire una casa di prostituzione, le case chiuse, volevo fare una nuova norma per aprire una serie di... Sarà d'accordo, la Moratti sarà d'accordo. Coperte e coperti, C e C. di cui tu poi mi pare che sia la soluzione migliore, almeno se si aprono i casini si sa chi sono le troie, perché altrimenti chiunque tua sorella può essere una troia. No, adesso stiamo calmi. Ma insomma, come si permette? No, chiunque può esserlo, almeno che sappiamo dove sono. Cioè, vorresti dire il signore o a Parenzo, ecco, che cosa gli fa pensare che sia una prostituta Ruby? Ecco, Parenzo, secondo te è una prostituta Ruby? Facciamolo parlare un attimo. Parenzo, è una prostituta Ruby? Ma non è un mio compito definire se la signorina Ruby Rubacuori all'epoca minorenne è o no una prostituta. Tu sei uno stronzo? Oppure dirò che sei un prostituto anche tu? Cioè, se una dice che non lo è, non lo è, punto! Ma che ma cosa stai dicendo? Della troia! Mi credo di offendere le donne, non te, punto! Né lei né la Minetti, sono dei ragazzi che scopano molto! È possibile o no? Forse, forse! Una volta al giorno saranno cazzi miei o no? Quanto, scusi, quante volte al giorno? Professore, che sono cazzi, una porno star non è una prostituta. Fa la porno star, saranno cazzi suoi, in senso tecnico o no? Parenzo, stai nominando prostituta una che la dà per i cazzi suoi. Si chiama così, volete impararlo o no? Non è prostituta. Quanto ai rapporti fra i due, se li negano entrambi, non ci sono stati. La verità degli atti sessuali è quella che io dichiaro, perché quando io sono al cesso non ti dico se cago o se piscio, faccio quello che mi pare perché ho la mia riservatezza. Allora lui ha detto di no, lei ha detto di no, non hanno avuto rapporti sessuali. Parenzo, come replichi? Ma cosa vuoi replicare? Scompare molto, cioè, non vuol dire essere troia. Un attimo, Vittorio, Parenzo. Vittorio, ormai è arrampicato, uno splendido esercizio dialettico. Tuo lo specchio, tuo e di quell'altra Boccassini. Cosa dovete andare a vedere quello che hanno fatto due che dicono che non l'hanno fatto? Allora, pagare una signorina per andarci a letto, a casa mia si chiama prostituzione. Poi a casa tua perché sei un coglione! Se una viene a casa mia, non è più una prostituta! Le prostitute stanno per strada! Se viene a casa mia, è presa! In un posto e portata da me, è l'opposto, ignorante! Se io prendo una prostituta per strada, ma scusami, e la nomino mia amante, esempio, scusami, diventa professore. Mia amante! Cazzi miei! Ignoranti! Bestie, capre, quale prostituta? Vergognatevi! Un attimo, Parenzo. E tu, no, voglio spiegare tutto questo, perché tu sei un poveretto, che hai una visione, siccome non te la danno gratis le donne a te, bisogna ripagarle. Ma io, ma che non ho mai pagato nessuna io. Mi avrebbe letto con Parenzo, ci vuole una pasta venire a letto con te, quindi se non le paghi non vengono. Allora, una donna che trovo per strada, stasera te l'hanno detto tutti come faceva la mattona, quando la porto a casa mia, hai il mio numero, la porta con me, è una mia amante, si chiama amante, non prostituta. Berlusconi ne ha pagate 33. Berlusconi ne ha pagate 33, pare, Vittorio. Pagate anche 56, ne ha pagate È poco. Uguale. Ma non è che le ha pagate, se uno ha fatto regali. Ha fatto regali, ha fatto regali. È uno stronzo. Ringraziamo il cielo. Beh, come ringraziamo il cielo? Ma fare dei regali, i regali si chiamano regali, le tariffe si chiamano tariffe. La prostituta chiede e ottiene, quella che invece sta con te può avere quello che tu desideri che lei abbia. Beh, queste persone non è che ma stavano. Ma quando viene a casa mia e dorme a casa mia e sta a casa mia, non è più, non è più una prostituta. L'ho nominata mia amante. Se poi la chiama il problema, se è la troia, sono problemi della società. Ma io in quel momento l'ho sollevata la strada. Ma scusami, dobbiamo chiudere, Parenzo, dobbiamo chiudere. Vittorio, ci sentiamo una delle prossime sere. Amore. Prostituzione. Due finocchi che non siete altro. Amore, abbraccia Volpe da parte mia. A presto, domani 18:30 alla Zanzara, stasera Parenzo ha preso insulti a destra e manca, che vuoi fare? Così. Va così. La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me la segni proprio. C'è una cosa... Non mi preoccupare.